Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Non c'è divinità tranne Allah, il vivente, il sussistente in sé. La ta'khudhuhu sinatun wa la na'um. Non lo prende sonnolenza né sonno. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. A lui appartiene ciò che esiste nei cieli e nella terra. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idhni. Chi può intercedere presso lui se non con il permesso di lui? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Egli sa ciò che è davanti a loro e ciò che è dietro loro, cioè il futuro e il passato di ogni uomo. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi. Ma essi non conoscono cosa di lui, cioè non sanno di Allah, illa bima sha', tranne ciò che egli ha voluto far sapere di sé. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Lo sgabello di lui è più vasto dei cieli e della terra. Wa la ya'uduhu hifzuhuma. E non lo affatica la conservazione di essi due. Wa huwa al-aliyyul azim. Egli è l'altissimo, il sublime.